Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci arrivati all'ultima trasmissione del 2012. Quindi un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Antonio, siamo arrivati ormai quasi alla fine del 2012. Velocemente, è passato in un lampo, devo Beh, dire. Insomma, sì. L'anno bisesto, cosa dicono? Bah, non io non do peso. Non dai peso. No, assolutamente no. È quello che lo rendiamo noi, l'anno, il tempo è quello che lo rendiamo noi. Appunto. Sì. Allora, a te. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro che è il 346 23 20 033. E ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. E non dimentichiamo naturalmente regista. Un saluto al nostro regista. Ciao Eddie. Allora Antonio, stasera abbiamo un ospite virtuale. Ecco, esatto. Avremo il professor Bellemo di Chioggia che ha detto che ci parlerà del gatto de Chiosa. Oh, sono curioso di sapere di che cosa si tratta. Prima di dimenticare, perché dopo magari nella fretta che arriviamo... E ringraziamo tutti i nostri ospiti, cosa dici tu? Certamente, noi ringraziamo tutti in particolare ospiti. I nostri referenti che sono le ascoltatrici e gli ascoltatori, ma in particolare gli ospiti che hanno arricchito la nostra trasmissione e che hanno portato quel quid di, come posso dire, di cultura, di varietà, di ingegni, eccetera, che è una cosa secondo me straordinaria. Ah, sono vera, veramente abbiamo avuto degli ospiti eccezionali. Sì, decisamente. Speriamo che il prossimo anno ce ne siano ancora certamente, tanti. Certamente, noi ci contiamo. Va bene. Allora, stasera faremo ascoltare canzoni inerenti a Natale. Allora, qui c'è una canzone di Francesco De Gregori che parla proprio, dice, fra due giorni, che fra due giorni è Natale, proprio siamo giusti. Allora, ci ascoltiamo Natale da Francesco De Gregori. Sui tetti c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni a Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi e che sogni che fai. E tu scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo corre piano, poi un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi e che sogni che fai. Thank you. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite virtuale, che salutiamo, il professor Bellemo da Chioggia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buonasera a lei, buonasera, professore. Buonasera a tutti, allora. Buonasera, come andiamo? Bene, stiamo preparandoci per le feste natalizie. Bentrovato. Bentornato, esatto. Bentornato fra noi, è sempre un piacere averla in studio con noi. Bene, stiamo facendo delle ricerche, perché ogni tanto ci arrivano qui in parrocchia delle persone che vengono dal Sud America, sì? E vogliono sapere se la trisavola, la bisavola, eccetera, è stata, o il bisavolo è stato battezzato qui in parrocchia. Le radici, la forza delle radici. E allora cominciamo a girare. Ultimamente c'è una del 1809, vuoi sentire? Però... Addirittura! Sì. Addirittura, che bello! E così possiamo via, insomma. Ah, intanto così passate un po' il tempo. Sì. Allora stasera ci parla, ha detto, del gatto de Chiosa. Del gatto de Chiosa, che è una ricerca che stiamo facendo. Sì. Perché sul gatto de Chiosa ci sono varie ipotesi. Allora, la prima, la più semplice, è la questione linguistica. Cioè, siccome i chioggiotti parlano con, specialmente quelli della zona verso Santa Maria, cioè sarebbe il Duomo, con la bocca molà, Catinetta, tira dentro in sioi che fa carica. Bellissimo. E allora dicono che parlando miagolano, e allora sarebbero quelli del gatto. Questa è una delle tradizioni secondo cui quei di Chioggia parlerebbero come il gatto. Sì, ah, miau. È una questione, diciamo, linguistica. In realtà, però, le questioni sono ben diverse, sono legate ad altri elementi. E una seconda tradizione, invece, dice che a Chioggia, dopo che Napoleone ha portato via le insegne della Repubblica di San Marco, e al ritorno degli italiani nel 1866 hanno fatto rifare il leone sulla colonna a Vigo entrando a Chioggia, ma tutti quanti era un, dicono che sia stato un vicentino, anche perché i vicentini sono magnagatti. Sì, sì. E aveva cominciato a fare sto leone, lo volevano fare più grande di quello di San Marco, e solo che poi ogni tanto passavano vicino e dicevano quello lì ha una testa troppo grande. E allora lo scultore ha fatto la testa più piccola. Sì. E diceva, no, passiamo un altro. Dice, no, ha un sederone troppo grande. E allora taglia, rompe, eccetera, è venuto fuori un leone piccolo. E per cui dicono che sopra la colonna di Vigo c'è il gatto de Chiosa, perché è un leone piccolo. E questa sarebbe la seconda tradizione di questo gatto. E poi ce n'è una terza. Questa è diciamo quella storica. E nel 1215 a Treviso c'è la guerra del Castello dell'Amore, cioè le trevigiane invitano a Treviso tutti i bei giovanotti della zona di Venezia e di Padova per questa guerra del Castello dell'Amore. Loro sono dentro il castello e da sotto i giovincelli devono cercare di fare in modo che le ragazze cedano e alla fine aprano la porta e entrino all'interno. E allora i padovani offrono dolci, diciamo confetti, dolci tipici di Padova. Sì. I veneziani che sono sotto sono dei buoni, diciamo, commercianti, fanno vedere gli zecchini d'oro. E allora le ragazze di Treviso si pensano che gli zecchini valgano più dei dolci e aprono la porta. I veneziani erano contenti e felici, sono andati sopra con lo stemma di San Marco. E i padovani si sono sentiti offesi e hanno preso la bandiera, lo stemma di San Marco e l'hanno bruciato. Tanto che dovete intervenire addirittura tra i contendenti, quelli di Treviso, per dividerli. E si giurarono di rimettersi a posto. Infatti qualche giorno dopo dal fiume Brenta sono scesi giù verso Chioggia le navi con le barche, ecco, con dentro i soldati di Padova. Allora i chioggiotti con i veneziani alla Torre di Bebbe, che è vicinissimo alla laguna, mandarono a difenderla un certo Marco Caco. Ancora oggi ecco, si dice delle esatto. Marco, Marco Caco. Eccolo. Si chiama Marcus Cauci, è scritto ancora Aviatore di Bebe in latino, ma è sempre lui. Ecco. Questo, aspettando che l'acqua facesse il gioco delle alte basse maree dentro il fiume, ecco, riuscì a catturarli tutti e a farli prigionieri. E allora, specialmente i giovincelli più altezzosi, furono portati a San Marco. E lì il doge di San Marco, per ottenere la loro libertà, ecco, per ogni due di questi prigionieri volle 3 galline. E quindi si immagina la piazza San Marco, da sopra c'è il doge, tutta la gente sotto che rideva, riprendeva in giro, e questi giovincelli scherzosi che dovevano pagare il fio di questi. Loro arroganza. Ecco. E la gente riprendeva in giro. Ecco. E tanto che è venuto fuori il detto delle galline padovane. Ah, sì, sì. Se le galline padovane. Ed ecco, i padovani, offesi da questo, hanno inventato poi un'altra storia. La storia che uno dei loro grandi, che era anche di Chioggia poi, Jacopo Dondi, sarebbe andato su a Cracovia, in Polonia, avrebbe preso un gallo e l'avrebbe poi accoppiato con una gallina della zona e sarebbe venuta fuori la storia delle galline padovane. Ah, difatti, sì, sì, e questa sarebbe la storia che avevano inventato. Ultimamente c'è proprio un giornalista padovano che ha detto che è una storia inventata. Infatti la storia vera è quella che viene riportata da tutti gli storici, delle galline padovane. Hai visto che allora non era vera sta storia delle galline padovane? C'era proprio una ricerca, sì, di uno storico padovano, di uno storico, un giornalista padovano, uscito fuori 2-3 anni fa. E qui, fin qui, sembrerebbe che tutto sia a posto. Nel 1256, ecco, così torniamo, a Padova c'è Zelino da Romano, che è un violento, si trova anche nell'inferno di Dante, esatto. Dante lo mise all'inferno perché era un violento. E allora Zelino da Romano lascia lì il suo nipote, Ardisio, e lui va a combattere verso le zone di Brescia. I Chioggiotti partono assieme con i veneziani con una crociata che viene indicata dal Papa. Il Papa manda una crociata, al grido di Croce San Marco si forma verso la Bebbe, sempre la solita Bebbe, un esercito di crociati. Il Papa dice: chi morirà in guerra in questa crociata andrà direttamente in paradiso. E quindi i Chioggiotti e altri vanno anche per fare un bottino. E tutti insieme, ci sono anche dei ravennati, dei trevigiani, cioè la gente che ce l'aveva contro l'eretico, perché era eretico e Zelino da Romano, sì, formano questo esercito di crociati, occupano prima Piove di Sacco, poi Costa d'Albero, Conca d'Albero, e poi se ne vanno verso Padova. A Padova ci sono, si chiudono le porte e ci si difende contro questi nemici. E questi nemici, questi chiamiamoli crociati, arrivano a Porta Altinate. Porta Altinate è la porta che andava verso la zona di Altino, per capire. Che chiama, sì. Porta, ancora oggi c'è Porta Altinate. Sì, mi pare sì, sì, appunto. Ecco, e arrivati lì alla porta, e chiaramente da sopra tiravano le frecce, i dardi, oppure olio bollente, fuoco, legna, pece, tipico. Allora, ecco, per evitare questo, i soldati crociati, tra cui la maggior parte erano dei veneziani, erano chioggiotti, perché i veneziani stavano facendo una guerra a Creta, a Candia, sì, ecco, e vanno sotto con un ariete. Chiaramente da sopra buttano tutto questo ben di Dio. Mamma mia. Allora, per evitarlo, hanno un sistema, si chiama vinea, cioè una copri ariete, in modo tale che il fuoco scendendo giù, ecco, non bruci le persone che ci sono sotto. Che vada per terra. Ecco, scenda, sì, ecco, immaginatevi come una casetta, come un piccolo fortilizio con le ruote, sì, che si sposta, si chiama in latino vinea, in veneto e in italiano gatto. Ah. Ecco, Rolandino, che è lo storico padovano di allora, dice che, lo scrive in latino, dice vinea vel gattus, quindi riproduce. Questa cosa, la stessa cosa, viene riportata poi dagli storici della Repubblica Veneta, il Doge, il famoso scrittore, ecco, riporta anche lui la storia di Sogattus. Ecco, cosa capita? Che buttando giù questo fuoco, ecco, i cagionati fanno prendere fuoco al gatto, e lo mettono sulla porta Altinate. La porta si brucia e così i crociati riuscirono a entrare in Padova. E sì. Quindi i cagionati dicevano che avevano preso Padova col gatto. E quindi era diventata una storia che rompeva ai padovani. Ecco. E a dire il vero, fecero da buoni crociati 3 giorni di saccomanno, dicono, cioè portavano via quello che potevano portare via, come facevano i soldati allora. Esatto. E quindi per anni i chiesotti parlavano, quando si vedevano i padovani, eccetera, parlavano di questo gatto. Abbiamo ciappato a Padova col gatto, la forza finale che c'è il gatto. E quindi i padovani l'avevano a morte con questo. Tanto che adesso finisco questa storia perché è lunga. No, faccia pure. Beh, ci interrompiamo magari un momentino per... Possiamo interrompere un po'. Per una canzone, sì. Sentiamo un po' una canzone. Sì, ascoltiamo una canzone di Natale. Bene, ci aspetti che torniamo subito. Bene. Allora, la seconda canzone è cantata da Claudio Baglioni, Un piccolo Natale in più. Di nuovo in studio col professor Bellemo. Professore? Buonasera, si dica. Ci siamo? Ci siamo, sì. Eccoci qua. Allora proseguiamo con la nostra storia. La nostra storia del gatto. Ecco. Allora, se noi vediamo il vocabolario della Crusca, ecco, dice che definisce gatto come la macchina bellica antica da riparo e da offesa, formata da un tetto tessuto di vinchi e di legno, sotto il quale andavano gli opposti impugnatori al coperto ad assalire le mura, avvicinatisi alle quali le percutevano con la trave sospesa dentro che aveva il capo a forma di ariete. Quindi qui ci abbiamo anche una definizione. Il Rolandino, che è un notaio di Padova, che è contemporaneo al Ezzelino da Romano, quindi è contemporaneo ai fatti, dice in latino, poi le traduciamo: edificium quod construssere, quod vulgo vinea dicitur id est gattus, cioè costruire un edificio che dal volgo è detto vinea, cioè gatto. E questo è citato anche poi dal Vegerio, dal il doge Dandolo, che scrive la cronaca estensa della storia di Venezia, dice: cum gatto suppositum fuisse ignem porta altinati, cioè con un gatto si applicato vince, diedero fuoco alla porta di Altinate. Poi viene ripetuta da l'Ariosto, la storia dei gatti: coperti da testuggine da gatti, con arieti e altri strumenti, a forar torri, a porre romperatti, tosto si fierano alla città vicini. Ne parlo i Guicciardini, i Giamboni, il Tasso, i Villani, Andrea da Barberino, i Pulci, eccetera, eccetera. Ludovico Antonio Muratori, addirittura sulle grande attività italiane. Sì, esatto. E quindi dice: con fiunt vine sive gatti ponte e scale, fecero vine, ossia gatti, ponti e scale, eccetera. Si potrebbe arrivare fino ai giorni nostri. Quindi diciamo che è una storia, chiaramente non tutti questi fatti si riferiscono a Porta Altinate, ma molti di questi proprio parlano di Porta Altinate da Rolandino in poi. Infatti, se si va a Padova a Porta Altinate, ci dice che nel 1256 i crociati sono entrati. E la storia sembrerebbe finita qui, anche se Dante mette nell'inferno, al canto dodicesimo, il nostro Ezzelino da Romano, intinto dentro il sangue. Noi abbiamo un paese, in provincia di Treviso. Sì, e mentre la sorella Cunizia viene messa in paradiso, al canto dodicesimo del paradiso abbiamo la sorella di Ezzelino da Romano che è in paradiso. Per aver sopportato cotale fratello probabilmente. E mi pare ci sia Romano d'Ezzelino, c'è un comune in provincia di Treviso. Sì, c'è un comune proprio... Romano d'Ezzelino, se non ricordo male, è Vicenza o sbaglio? No, Treviso. È confine, comunque vicino confine, Bassano. Sì, non è vicino a Bassano? No, è vicino a Bassano. A Bassano, sì. Deve essere quella zona lì. Ed era la rocca da dove veniva fuori la famiglia. È stata anche l'ultima difesa di Ezzelino contro i crociati. E racconta un'altra leggenda, poi torniamo al nostro gatto, che gli apparve in sogno la madre e gli diceva: eu eu Axanu. E allora lui capiva: guardati da Axano, Bassano. Dice: io non mi andrò mai a farmi prendere a Bassano. Lui era uno che non credeva, ma aveva gli astrologi che gli dicevano se combattere o meno. È un personaggio un po' strano questo Ezzelino. E invece fu sconfitto a Cassano in Lombardia. Fu fatto prigioniero, condotto a Soncino, Cremona, provincia di Cremona, sì. E dove morì disperato, si strappò tutte quante le bende, e sulla tomba è stato scritto: terra Sunzini, tumulus canis est e ceini, quell'acerant manes tartareque scanes. La terra di Soncino è la tomba del cane Ezzelino, che le pene infernali e i canni del tartaro lacerano. Ma era proprio cattivo? Era violento. Dopo la conquista di Padova da parte dei crociati, lui aveva 10.000 prigionieri padovani e li fece uccidere tutti. Mamma mia, proprio... Era un violento, tagliava il naso oppure ammazzava a coloro che erano contro di lui. Siamo in un periodo... Era un po' dittatoriale. E questo l'hanno messo all'inferno. Dante ne ha avuto conferma, perché Dante viene nel 1321, questo è il 1256, quindi conosceva molto bene la storia di Ezzelino da Romano. Che era un grande condottiero, ma anche grande violento. Era amico di Federico II, imperatore, quindi lo rappresentava. C'erano anche allora i cattivi, vero? In tutto il mondo è sempre stato così, sì, ci sono i buoni. La storia si ripete. E peccato originale ce l'hanno tutti. Appunto, la storia si ripete. Ecco, poi... E poi, ecco, ci è capitato nel 1900 che alcuni studenti padovani, neolaureati, sono andati a fare la festa della laurea a Chioggia. E chiaramente a Chioggia cosa si mangia? Vino, e si beve vino e si mangia pesce. Sì. Ecco, e si sono fatti portare il pesce. E alla fine hanno avuto la brutta idea di prendere le lische di pesce, i spini, cose che come dice i padovani, e li hanno portati al gatto a mangiare. Sotto la dove c'è il leone di San Marco, hanno portato gli spini. E mai in cosa, perché hanno trovato dei giovinastri chioggiotti che li hanno presi e gli hanno fatto mangiare anche i spini. Oh, mamma mia! E allora, da allora, chi passa vicino mormora che dice il gatto, ma nessuno ha la voglia di dire la voce alta non che mi tocca mangiare anche gli spini. È una bella storia. Beh, penso che sia una storia che nessuno conosca, perché... L'abbiamo ricercata da poco, probabilmente assieme a un giornalista della Nuova Scintilla, che è il giornale della diocesi, e verrà pubblicata sulla rivista Chioggia, probabilmente il giornalista è Angelo Padovan, che da anni dove verrà pubblicata al mese di gennaio-febbraio. È una rivista che viene trimestrale, che parla di Chioggia, e allora qui ci siamo divertiti a cercare questa storia di sto gatto con le tre ipotesi: la prima, quella linguistica; la seconda, diciamo, quella del leone piccolino, ma di questo gatto se ne parlava qualche anno prima, e terza, questa del canto della guerra tra i crociati e da una parte e Ezzelino da Romano. Ezzelino da Romano, tremendo uomo, era un uomo violentissimo. Proprio lui, quando arrivava, chi era contro di lui lo squartava. Dittatoriale, dittatore. Diciamo che poi i veneziani fecero ugualmente quando presero, e lui muore, presero il fratello o il cognato Alberto e gli misero due cavalli, tirarono uno da una parte e uno dall'altra, finché restò qualcosa. Purtroppo era una storia di violenza, siamo in un periodo proprio di violenza, Non mi piacciono le violenze, però ce ne sono sempre state e purtroppo... Fanno parte della storia dell'umanità, purtroppo. E Ezzelino da Romano era uno che aveva sempre vicino a sé gli astrologi. Prima di fare qualsiasi battaglia, qualsiasi movimento, andava a vedere sopra le torri... come erano le stelle, eccetera. Uno strano miscredente. Lui credeva nell'astrologia. Ma è il periodo dell'astrologia. Sì, difatti. Perché non c'è una differenza ancora tra astrologia e astronomia. Ah, ho capito. E per cui diventerà scienza, inizierà a essere scienza con il Piero d'Abano, comincia i primi tentativi di passare da astrologia a dividere astrologia e astronomia. Sono e Padova è il centro, fino ad arrivare a Galileo. È passato a Galileo, chiaramente. È chiaro. Esatto. Io sono un ex, studente ormai, da qualche più che lustro di Padova, oltre che di Roma, e quindi conosco Padova come un luogo fondamentale della nascita della scienza moderna. E tuttora un luogo straordinario per la ricerca astronomica, eccetera, per le parti, diciamo, di satelliti, per le parti di strumentazione che mandano in orbita, eccetera, un luogo eccezionale, veramente straordinario. Lei crede nell'astrologia, professore? No, però c'è una... San Tommaso d'Aquino, buon'anima, e Santo Alberto Magno, anche loro si sono trovati, siamo nello stesso periodo, col problema dell'astrologia, e allora lo risolvono in questo modo, dicendo che per la parte fisica noi possiamo anche dipendere in parte dagli astri, per la parte invece del libero arbitrio noi invece dipendiamo dalla nostra volontà. E così hanno salvato capre e cavoli. Allora ha ragione un'amica quando mi diceva che gli astri declinano ma non determinano. Questa è una tradizione, una traduzione in termini più popolari del testo di San Tommaso. Sì, appunto. Alberto Almagno, sono i due grandi filosofi, diciamo, della scolastica, che studiano proprio questo problema dell'astrologia. Ma penso che gli astri possano intervenire come entrano sulla natura, perché alcuni prodotti vengono buoni o no. So che i nostri contadini dicevano: mai seminare quando è così, esatto, mai esatto. Fare il vino in quel periodo, bisogna farlo in quell'altro, perché sennò diventa aceto, perché sennò diventa... Cioè, c'è un'influenza della luna e degli astri sulla natura, diciamo, dei campi, e probabilmente anche sul carattere delle persone. Delle persone, sì. Cioè, ci sono 12 segni, per cui... Ma, insomma... Non lo so. Qualcosina, insomma. Comunque, certo. Adesso state facendo altre ricerche, professore? Sì, stiamo lavorando su altre cose. Ma abbiamo ancora, siamo in via, e stiamo lavorando sulle entrate di Federico Barbarossa a Chioggia e su i preaccordi prima di arrivare a Venezia e fare la pace col Papa Alessandro III. E stiamo cercando alcune documentazioni, abbiamo trovato qualcosina. Chissà che fra qualche mese sia pronto. Non lo sappiamo, perché nelle ricerche storiche, se hai la fortuna di trovare i documenti, perché abbiamo trovato alcuni documenti, ci siamo divertiti. Ah beh, certo. Comunque questa cosa è stata simpaticissima, una bella storia, diciamo, perché... Comunque, volevo chiedere, professore, come passate voi il Natale? Qual è la tradizione più... Allora, da noi c'è la ciara stella, non so se ci sia anche da sì, voi. Sì, sì, almeno c'era, no? Di solito, ecco, lo facevano verso l'Epifania, ma sì. A volte anche a Natale, cioè ci sono ancora dei ragazzi adesso che vanno in giro, specialmente la zona sottomarina, e quello che raccolgono poi lo portano alle famiglie che hanno bisogno. Una volta invece sì... prendeva e si faceva, diciamo, una mangiata, perché una volta non è che si stesse molto allegri, ma adesso che c'è almeno una certa possibilità economica, viene data a chi, specialmente in questo periodo, ha difficoltà. Penso ci siano molte famiglie che hanno bisogno di questa cosa qua. In incremento, ho paura, sì. Speriamo bene. Infatti noi consigliamo, invece che portare i pacchi agli amici, di dargli a chi è poveraccio, almeno per Natale. Esatto. Questa è una gran bella cosa. Un assaggio, decisione. Sì. E poi, come il vostro dolce... Poi c'è i famosi pranzi natalizi con prodotti diversi. Ad esempio, da noi c'è scatagnaccio, il castagnaccio. Avete mai mangiato la polenta di castagna? Castagnaccio. A me non piace. È perché è molto pesante, tra l'altro. Sì, sì, sì. Oppure altri cibi di ripresa. Ad esempio, da noi c'è il potaceto dei fasioi con il grano che dentro. Anche quello molto leggero. Ci vuole poi un vino molto forte, adeguato, per esatto, esatto. Perché, questo... Poi ci sono i dolci che sono tipici, le bisciole, sono dolci a forme di biscia, no? Le bisciole, diciamo. Tipo biscotti? Ecco, una specie di biscotti che vanno presi col vino dolce. Cioè il vino siciliano, Marsala o altro vino, si intingono questi e si bevono. Ma proprio il giorno di Natale, il piatto forte, proprio il primo piatto. Noi facciamo il risotto con le vongole. Oppure abbiamo la pasta con le alici. Ah, buona anche quella. E quello. Noi ci mettiamo anche i capperi dentro. Gli spaghetti? Spaghetti. Ecco, sì. Si chiama in dialetto bigo in salsa. Bigo in salsa. E dopo che c'è sardegna in saore, se vuole, come antipasto. Ah, sì, ma qui lo fanno la vigilia questa cosa sì, qua. Sì, il pesce viene fatto la vigilia. La vigilia c'è anche qua, anche come al sud, il bisato. Cioè c'è sempre l'anguilla, viene tagliata a pezzi, viene arrostita. E quindi cola il grasso e viene mangiato in questo modo. Oppure si fa anche il broetto, sempre di pesce. Il broetto, sì. Il broetto che è diverso da quello del Livorno, alla Veneta, al veneziana. Sono vari pezzi di pesce di vario tipo e vengono bolliti e dentro viene fuori un sugo denso con il pomodoro e con pezzi di pane si intinge e si mangia. Beh, verremo anche oggi a assaggiare un po' di questi. Ah, io sono proprio, abito proprio vicino al ristorante che si chiama El Gato. El Gato. Nomen. La mia cucina è proprio di fronte a loro. Bene. E quando torno a casa sento il profumo che arriva da questo ristorante. Poi vado su, ho le finestre che sono dall'altra parte, dove c'è invece la pasticceria da Bruno. Oh mamma mia, ho già il profumo da Bruno. È proprio un bel posto. Bel posto, professore. Bene, professore, noi la ringraziamo per l'intervento bellissimo, con la speranza che fra qualche mese ci sentiamo. Possiamo sperare? Sì, casomai vi conterò la storia delle carte onte. Ecco, bravo. Perfetto. E intanto le facciamo i migliori auguri di le buone feste a lei e alla sua famiglia. Anche a voi, sì. Allora, buon Natale. Grazie. A voi e anche e alla buon prossima anno. Volta. Grazie. E grazie. Buona Befana, perché è la festa delle donne. Giustamente. No? Buon Natale, professore. Grazie a voi. E grazie di tutto. A voi. Saluti. Grazie. Prego. Allora ringraziamo il nostro professor Bellemo Luciano e proseguiamo con un'altra canzone. Cosa dici, Antonio? Sì, certamente. Va bene. Allora, adesso ci ascolteremo una canzone che a me piace, per dire la verità. Si chiama Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Yeah, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Play it, boys. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. E dopo la simpaticissima parentesi ciosota, rientriamo in studio, passando dalle tradizioni alla poesia. Non potevamo esimerci naturalmente dal ricordare con qualche poesia la prossima festività, il prossimo avvenimento importante. Leggo una breve poesia che è stranota naturalmente, ma ritengo che sia sempre efficace. Di Giuseppe Ungaretti, Natale. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. È sempre bella questa poesia. È sempre sì, efficace proprio. E invece io leggo una poesia intitolata Sempre Natale di una nostra poetessa trevigiana, la signora Elisa Salaborin. Non chiedetemi perché, ma io sento in questa notte santa odore di buono, di magico ed antico, che mi riporta in quella terra riarsa, amare lontana, dove pace è una parola sconosciuta. Oh mio Signore, ti prego, fa che il ricordo del neonato Gesù porti la terra promessa a tutti gli uomini di buona volontà e buon Natale. E adesso, Antonio, cosa facciamo? Leggiamo un raccontino? Un racconto. Bene. La peggior nottata di Babbo Natale. L'autore non ci è pervenuto, ma è un racconto abbastanza così scherzoso. Era la notte del 24 dicembre e una gelida nevicata stava imperversando sulle Alpi. Il vento soffiava furiosamente e la bufera di neve permetteva di vedere ben poco. Eppure lassù, dove nessuna persona sana di mente avrebbe osato andare d'inverno, un uomo corpulento, vestito di rosso, stava trascinando un'enorme slitta carica di regali nell'indifferenza totale delle renne che avrebbero dovuto trainarla. Babbo Natale sbuffava per la fatica che gli faceva trascinare nella neve alta diverse tonnellate di regali e imprecava denti stretti verso le renne che lo guardavano con scherno. La slitta aveva lasciato un lungo solco nella neve, altrimenti purissima. «Maledette scansa fatiche!» gridava, la voce coperta dal rumore del vento. «Avete scelto il momento perfetto per fare uno dei vostri stupidi scioperi!» «Beh, forse era il caso di affidarsi a mezzi più moderni», pensò Babbo Natale, digrignando i denti, mentre avanzava a fatica nella bufera. Dove si era mai sentito che la notte della vigilia le renne decidessero di non avanzare più, planassero sulla montagna vicina e lo lasciassero in balia degli elementi? E proprio all'inizio di un paese così importante come l'Italia. E per che cosa, poi? Per un paio di frustate ben assestate. Ma scherziamo, le renne di oggi non sanno più stare al loro posto, disse mentre saltava sulla slitta pochi secondi dopo averle impresso una spinta decisa e iniziava a scivolare a gran velocità lungo il fianco della montagna. La slitta atterrò violentemente in mezzo ad una strada asfaltata. Dopo essersi tolto la neve dagli occhi e dai capelli e aver controllato che nessuno dei regali fosse andato perso, Babbo Natale tirò un sospiro di sollievo. Era riuscito a scendere sano e salvo dalla montagna e la presenza della strada era un buon segno. Ora non restava che avanzare fino alle prime case e a quel punto si sarebbe inventato qualcosa per riuscire a portare tutti i regali prima del calar del sole. «Basterebbe che tu ci concedessi un paio di cose e riprenderemmo subito a lavorare», disse ad un certo punto una renna. «In fondo non chiediamo poi così tanto». «Questa è buona», rise Babbo Natale. «E sentiamo che cosa c'è che vi sentite in diritto di chiedermi?» «Innanzitutto niente più frustate!» Babbo Natale sbuffò. «Ah, ma sentile! E come pensate che potrei spronarvi ad andare abbastanza velocemente con un intero pianeta da servire in una sola notte?» «Secondo», continuò imperterrita la renna, «vogliamo avere dei giorni di riposo». «Per Diana, ma se lavorate solo la vigilia di Natale!» «Questo non è affatto vero! Tu ci fai sgobbare tutto l'anno! Raccogliete i materiali, trasportate i folletti qua, portatemi là! Non abbiamo mai tempo per noi e ormai siamo stufe!» Dalle altre renne giunsero borbottii di approvazione. «Basta così! Non ho intenzione di sentire una sola parola. Preferisco non portare a termine le consegne piuttosto che ascoltare tutte queste idiozie. Questa notte me l'avete rovinata, ma più tardi vi rimetterò in riga. Potete contarci!» Dopo quello che gli sembrò un tempo infinito, finalmente vide un gruppo di luci al termine della strada. Era ora. accelerò leggermente e vide che ai bordi della strada c'erano alcune cabine. Alla sua destra un cartello recitava «Benvenuti in Italia». Per l'ennesima volta quella notte Babbo Natale imprecò. Si trovava alla dogana italiana. Sperò intensamente che non ci fossero complicazioni. In quel momento vide un uomo alto camminare speditamente verso di lui. Alla flebile luce del lampione notò che era molto giovane, ma il suo atteggiamento, ritto ed impettito, lo facevano sembrare più anziano. Il doganiere si fermò, lo guardò per qualche secondo e poi disse «Posso vedere il suo passaporto, prego?» «Il mio passaporto?» «Esattamente!» Ci fu un attimo di silenzio. «Non ho un passaporto, io sono Babbo Natale. Può dimostrarlo con un documento di identità?» «Beh, no!» Alcune renne ridacchiarono. «Allora temo che lei non possa passare.» Era troppo. Sentì la rabbia montargli nel cuore. «Giovanotto, io distribuivo regali quando la tua bisnonna era ancora una poppante e ora ti permetti di dirmi che non posso passare?» Gridò, gli occhi ridotti a fessure, mentre piccoli ghiaccioli cadevano dalla sua barba bianca. «E in tutto questo tempo non poteva approfittarne per fare un documento di identità?» «Ma come? Tu?» Babbo Natale aveva così tanta rabbia in corpo che non riusciva ad articolare le parole. Il doganiere non fece una piega. «Perché non mi mostra che cosa stava trasportando?» Senza aspettare una risposta, camminò fino alla slitta e scostò la coperta rossa che ne copriva il contenuto. «Giochi da tavolo, Lego, articoli di elettronica», mormorò. Poi prese un giocattolo e lo guardò accigliato. «Ehi, mi hanno parlato di questi in caserma. È un prodotto cinese altamente tossico, proibito da tutti i mercati.» «Sì, beh», fece Babbo Natale, «non abbiamo avuto tanto tempo. E questi costavano poco.» «Basta così. Lei si rifiuta di dichiarare la sua identità e sta introducendo nel paese merce contraffatta e pericolosa. Venga con me, prego.» «Per la barba di Merlino, io non vengo da nessuna parte. Ma che insomma, mette giù le mani, non mi tocchi, le dico.» «Che cosa sta succedendo qui?» Il grido era arrivato da lontano. Babbo Natale guardò attraverso la neve che stava ancora fioccando e vide un altro doganiere avvicinarsi verso di loro. Era decisamente più anziano dell'altro e una barbetta bianca gli coprise il viso infreddolito. Il suo volto era teso nello sforzo di avanzare controvento, ma quando vide Babbo Natale gli fece un sorriso affabile. «Ma guarda che notte fortunata! Babbo Natale in persona alla nostra dogana! Buonasera! Buonasera!» Gli strinse energicamente la mano. «Spero che il mio collega qui non gli abbia dato troppi problemi.» «Signore, quest'uomo è un...» iniziò a dire l'altro. «Basta così, Luca!» Il doganiere più anziano lo fulminò con lo sguardo. L'altro borbottò alcune parole di protesta, al che Babbo Natale prese la parola. «Meno male che è arrivato lei, spettabile signore. Questo giovane maleducato mi ha rivolto delle accuse intollerabili e poco ci mancava perché mi menasse violentemente.» «Quest'uomo pretende di superare la dogana senza identificarsi e trasporta merci non autorizzate. Potrebbe essere chiunque», sbottò Luca. «Su, su», sorrise il doganiere anziano. «Lo zelo eccessivo non ha mai fatto bene a nessuno. E poi chi vuoi che sia a quest'ora con questo freddo, se non Babbo Natale in persona? Ecco, glielo dica, non c'è più rispetto.» «Non si preoccupi di lui, signor Babbo Natale. Ci penserò io a redarguirlo a dovere.» «Lo spero. Bene, si è fatto tardi e io devo assolutamente...» «Non così in fretta.» Il sorriso non scomparve dalla faccia dell'uomo, ma Babbo Natale vide che i suoi occhi erano determinati. «Che cosa ne direbbe di un piccolo dono alla nostra amicizia prima di andare?» «Ma di che cosa sta parlando?» «Mi pare di aver intravisto tra i regali una gran bella console, proprio quella che mio figlio ha sempre desiderato, ma non sono mai riuscito a comprargli.» «Ma io ho già dei regali per suo figlio.» «Oh, sono sicuro che una piccola aggiunta non guasterà», sorrise il doganiere. «Sì, ma quella console è di qualcun altro. Non posso certo lasciare un bambino senza regali, ne va della mia reputazione.» «Su, via, troverà certo il modo. Faccio lo scambio con un bambino povero che non possa lamentarsi.» «Le ho detto di no, io me ne vado.» Dopo queste parole, Babbo Natale cercò di andarsene. Tuttavia il doganiere lo bloccò con un gesto cortese ma deciso. Andiamo, veda di non complicare la faccenda. Sappiamo tutto di lei. Il contrabbando di giocattoli cinesi, le condizioni di schiavitù in cui ha ridotto i folletti, lo sfruttamento delle renne. Io non giudico tutto ciò, ma non sono neanche così stupido da non approfittarne. Babbo Natale aveva un'aria sconvolta. Io, dannazione, va bene, farò avere quella console a suo figlio. Grazie della collaborazione, sorrise il doganiere. Idiota, borbottò Babbo Natale afferrando la slitta. I due restarono a guardarlo trascinare faticosamente la slitta oltre la dogana. Ogni tanto il vento che soffiava verso di loro gli portava il suono di una valanga d'improperi. Lo sa, vero, che quello che lei ha fatto stanotte è tremendamente illegale? Disse il più giovane. Ah, Luca, sospirò l'altro, hai ancora così tanto da imparare. Beh, diciamo che sì, secondo le cose del mondo giustamente è ancora così tanto da imparare. Appunto, appunto. Beh, adesso ci ascoltiamo una canzone, che dici? La prossima canzone, esatto. Quarta canzone in programma è White Christmas, cantato da Carrera, Domingo e Pavarotti. Ed eccoci di nuovo in studio e con altre due o tre poesie dedicate al Natale. Adesso io ne leggerò una del nostro poeta trevigiano Emilio Gallina. Ciao, che Emilio. È intitolato Davanti al presepe. Intanto facciamo anche gli auguri a Emilio. Naturalmente. Ecco, questa poesia è stata dedicata alla nipotina Agnese. Non posso dimenticare il tuo grido di meraviglia, bambina, e il tuo batter di manine dinanzi al presepe fatto di poche cose, piccola Agnese, e il toccare con le tue piccole dita pecorelle, agnelli, pastori. Al tuo tocco curioso tutto cadeva, tra il tuo divertito ridere e i tuoi infantili «Perché, nonno? Perché? Che è questo? E quello? Che è?» Non posso dimenticare, piccola Agnese, l'incanto di tanto momento e il tuo continuo prendermi per mano per portarmi davanti a quel segno di fede e tradizione che sempre mi ha colmato di meraviglia il cuore. Rivivo con te il gioioso stupore dei miei presepi bambini. È Natale di Madre Teresa di Calcutta. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Bella, molto bella. E infine un classico della tradizione, le ciaramelle di Giovanni Pascoli. Anche questa è molto carina. Udì tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninne nanne, ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente, hanno destata nei suoi tuguri tutta la buona, povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende il lume sotto la trave, sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, di cauti passi, di voce grave. Le pie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe. Sembra la terra, prima di giorno, un piccoletto grande presepe. Nel cielo azzurro tutte le stelle paion restare come in attesa, ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce e passato pianger di nulla. O ciaramelle degli anni primi, davanti il giorno, davanti il vero, or che le stelle son là sublimi, consce del nostro breve mistero, che non ancora si pensa al pane, che non ancora s'accende il fuoco. Prima del grido delle campane, fateci dunque piangere un poco. Non più nulla, sì di qualcosa, di tante cose, ma il cuor lo vuole, quel pianto grande che poi riposa, quel gran dolore che poi non duole. Sopra le nuove pene sue vere, vuol quei singulti senza ragione, nel suo martoro, sul suo piacere, vuol quelle antiche lacrime buone. Pascoli è sempre il Pascoli. Sempre un grande, sempre sì. Un grande. E con questo naturalmente noi siamo arrivati al termine. Siamo arrivati alla conclusione di un'avventura che insomma era iniziata così, nella speranza di poter fare qualcosa di piacevole, diciamo, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Contiamo, non dico di esserci riusciti appieno, ma di aver fatto uno sforzo in direzione di quella, come posso dire... Noi ce l'abbiamo messa tutta. Noi ce l'abbiamo messa tutta e riteniamo di essere abbastanza soddisfatti di noi stessi. Sì, ecco, lasciateci passare il termine. Comunque noi auguriamo buone feste, perché ormai ci sentiremo dopo le feste. Certamente. Quindi auguriamo buone feste a tutti quanti, a tutti ascoltatori e ascoltatrici, agli ascoltatori e ascoltatrici fedelissimi e a quelli anche che ci sentono ogni tanto da lontano. Quelli tecnologici che ci sentono attraverso internet. A voi tutti un abbraccio e un buon anno e prima buon Natale e poi un buon anno a tutti, vero Antonio? Tu fai auguri di buon anno, che sei un uomo, forse le gradiscono di più. No, non è un problema, il problema è quello di vivere in serenità e di essere lucidi e tranquilli e sereni, di non lasciarsi trascinare dalle contingenze e dai drammi e dalle cose dei tempi. È un buon Natale anche a te, ecco, questo è grazie, questo è il migliore augurio, è quello di poter vivere serenamente nella pace del Signore. Ecco, allora, tanti auguri anche al nostro regista e al nostro Mirko e a tutti, e a tutto lo, tutti staff, lo staff della radio. Sì. Bene, come sempre vi abbraccio e vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.